Visítenos www.mercadolibresde.com.py. Visítenos www.mercadolibresde.com.py. Visítenos www.mercadolibresde.com.py. Visítenos www.mercadolibresde.com.py. Pretending that his love is never ending.

prendo il treno e vengo, vengo da te. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando, l'anno e il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando, l'anno e il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. www.mercadolibresde.com.py. Me. Visítenos www.mercadolibresde.com.py.